perché lassù ci attende il Signore. E se noi soffriamo un pochino qua giù, è perché ci attende l'amore. Ed eccoci giunti, cari ascoltatori, alla 59esima puntata sulla vita del curato d'Arse. E penso che sarà una puntata importante, perché oggi parleremo, o meglio, cominceremo a parlare della sua pazienza. E penso che la pazienza sia una virtù molto rara ai nostri giorni, vero? Viviamo in un mondo convulso, caotico, che certo non favorisce la pazienza, non favorisce l'esercizio di questa virtù. Però penso che noi di questo difetto, dell'impazienza, ci accorgiamo spesso, a differenza di tanti altri difetti che magari non vediamo nemmeno in noi. Ma questo è troppo evidente e non è possibile non vederlo, è un difetto macroscopico che, almeno secondo la mia esperienza, pesa parecchio. Quante volte ci vorremmo rimangiare le parole che abbiamo detto in un momento di rabbia, in un momento di agitazione dell'animo. Parole che magari hanno ferito il prossimo e certo non hanno risolto nulla, anziché risolvere il problema lo hanno complicato, lo hanno reso quasi inestricabile. Quindi penso che tutto quanto sentiremo adesso a proposito della pazienza del curato d'Ars sia e sarà quanto mai utile, stimolante. Sarà da una parte uno schiaffo salutare, ma dall'altra anche un balsamo che medica e nello stesso tempo un corroborante che stimola e irrobustisce. Beh, cominciamo a dire che se l'amore alla povertà e ai poveri poteva essere semplicemente nel curato d'Ars una virtù naturale, che gli riusciva facile, dato il suo temperamento portato alla compassione, così non fu riguardo alla pazienza. La pazienza fu una virtù che il nostro eroe non ebbe per nulla in dono dalla natura, essendo egli decisamente di carattere rude e impetuoso. E sapendo questo particolare, carissimi, quanto diremo adesso ha quindi un valore ancora più grande ed è quindi ancora più significativo. Dunque la pazienza fu per lui più frutto di conquista che non regalo della natura, e sia pure regalo che egli seppe poi custodire e sviluppare, no. In questo caso non fu così. E a furia di sforzi lunghi ed eroici, egli si trasformò a tal punto, subì tale metamorfosi, da lasciar credere a chi non lo conosceva e lo vedeva per la prima volta, da lasciar credere che fosse senza passioni e completamente incapace di adirarsi. Ma dobbiamo anche aggiungere, carissimi, che chi invece l'ha avvicinato, chi ha potuto avvicinarlo con frequenza, sa benissimo, ha osservato benissimo come fosse viva la sua immaginazione e bollente il suo carattere. Ogni tanto Don Raimond gli chiedeva: «Reverendo, come potete restare sempre calmo con la vivacità del vostro carattere?» Risposta: «Amico mio, la virtù domanda coraggio, violenza continua a se stessi e soprattutto l'aiuto dall'alto». Difatti sappiamo che ci volle per lui un tirocinio lungo e penoso per conseguire la virtù della pazienza, virtù che formava l'ammirazione di quanti lo osservavano. Questa dote, dice il conte di Garé, mi colpì e mi impressionò più che le altre, né io credo sia possibile possederla in misura più elevata. Lo vidi sempre uguale a se stesso, cortese, qualunque fosse il contegno tenuto nei suoi confronti. E fratello Atanasio aggiunge: io penso che se la virtù non lo avesse temperato, molto facilmente sarebbe stato vittima dell'ira. Bastava osservarlo per accorgersi dello sforzo che gli era necessario per contenersi. Io stesso me ne avvidi da indizi quasi impercettibili e qualche volta, per esempio, quando persone moleste lo irritavano, stringeva il fazzoletto che per abitudine aveva sempre in mano. Potei anche vedere quale costrizione si imponesse per frenare l'impazienza. Era però necessario conoscerlo molto bene per rendersene conto. E allora qui dobbiamo dire, carissimi, che il nostro santo era di una sensibilità estrema. Per cui, come è logico immaginarsi, nascevano in lui involontarie antipatie, vero? Che solo la carità sapeva frenare e nascondere. Abbiamo osservato spesso, dice una sua parrocchiana, che in presenza di alcune persone doveva farsi violenza, ma non ne fece mai parola ad alcuno. Ecco, questo è un fatto. Per accorgersi delle tempeste che gli passavano dentro bisognava cogliere l'espressione del suo viso e il lampo fulmino dei suoi occhi. E ciò si vide molto bene, per esempio, sia pure solo per qualche istante, il giorno in cui fu nominato canonico, no? Quando fratel Gerolamo venne a pregarlo di recarsi in coro con la mozzetta. Un episodio che abbiamo già raccontato. Beh, adesso ascoltiamo cosa dice della sua pazienza il famoso maestro del paese, maestro Giovanni Pertinand, che fu certo una delle persone che lo conobbero di più e che lo conobbero meglio. Dice, un giorno, a insaputa del curato, sorpresi un ragazzo che stava rubando le elemosine della messa. Per cui, insieme al sindaco, mi recai ad avvertire i suoi genitori. La madre del fanciullo, informata, pensò che la denuncia all'autorità fosse partita dal curato. Per cui il mattino seguente lo avvicinò in sacrestia e gli rivolse i più aspri rimproveri. Poi continua e dice: «Io, che me ne stavo nella chiesa vicino alla porta, intesi una sequela di calunnie». E intesi anche la risposta del santo: avete ragione, pregate per la mia conversione. Un fatto che si commenta da solo. Beh, adesso sentiamo un'altra testimone assai vicina al curato, ed è la famosa direttrice della Providence, che si chiamava, ricorderete, Caterina Lassagne. Così ha lasciato scritto nel suo petit mémoire: ho inteso dire che nei primi anni della sua vita fra noi si recò da lui un uomo di Ars, che gli rivolse ogni sorta di ingiurie. Il santo lo ascoltò senza dire parola e per delicatezza volle accompagnarlo e abbracciarlo quando se ne partì. Ma attenti come finisce l'episodio. Ebbene, dice Caterina, l'atto gli fu così gravoso che a stento poté risalire alla sua camera. E quando si gettò sul suo letto aveva segni evidenti dello sforzo sostenuto. Ecco, dice, è stato osservato più volte che ascoltava con calma un linguaggio anche rude, sì, ma nel suo corpo passava un tremito. E la ragione la spiegò egli stesso dicendo, quando si è vinta una passione le membra tremano. Fin qui Caterina Lassagne, ma sentiamo ora anche, carissimi, un'altra celebre testimone della sua vita, ossia colei che fu compagna di Caterina nella conduzione della Providence, anche se addetta a mansioni più semplici, se vogliamo più umili materiali, che si chiamava Gianna Maria. Dice Gianna Maria, racconta, un giorno il curato, proprio alla Providence, ebbe una grave contrarietà. E attenti, la sentì così vivamente che egli stesso, sia pure sempre con grande calma, ci disse: «Se io non volessi convertirmi, mi arrabbierei». E un altro testimone dice: «Ho saputo che Don Vianney ricevette un giorno uno schiaffo e che disse: «Amico mio, l'altra guancia è gelosa». Ma attenti, vi era un'altra circostanza che contribuiva a mettere a dura prova la pazienza del curato d'Ars, e cioè quando era circondato dalla folla, in mezzo alla quale ebbe spesso occasione di far violenza a se stesso. Alcuni avevano fretta di vederlo e di parlargli. Altri, dopo essere stati un po' con lui, sentivano il bisogno di avvicinarlo ancora, eccetera. In questo modo, osserva un sacerdote, attorno alla sua persona si formavano correnti opposte che lo tiravano in ogni senso. Ma ciò che meraviglia è il constatare che anche schiacciato e quasi soffocato dalla folla, apparisse sempre angelo di carità e di mansuetudine. Si potevano leggere i segni della stanchezza fisica impressi sul suo volto, ma invano si sarebbero cercati segni di disappunto. Quantunque la vivacità del suo temperamento dovesse rendergli penosa ogni contrarietà. E poi aggiunge: aveva pochissimo tempo a disposizione e si imbatteva a volte in persone che lo trattenevano con noiosissime ripetizioni. Conosceva i bisogni reali di tante anime e invece lo si fermava per dirgli cose insignificanti. Ma tutto ciò non riusciva a fargli perdere quella carità fatta di pazienza e di dolcezza che lasciava tutti contenti. Ecco, più di una volta è successo che fosse chiamato in sacrestia quando una cinquantina di persone, o anche di più, circondavano il suo confessionale. Bene, anche allora si arrendeva ai desideri degli importuni e ascoltava senza il minimo segno di impazienza queste persone, quantunque lo si fosse incomodato per motivi di poco conto. Un giorno, in cui i pellegrini si stringevano numerosi attorno al suo confessionale, lo si vide uscire ben 3 volte per dare la comunione a 3 persone che avrebbero potuto benissimo presentarsi insieme. Ebbene, non ebbe né un lamento né un rincrescimento. E un testimone di questa scena ne fu così colpito che uscì di chiesa gridando, perché anche gli interessati potessero capire: sono in collera con il curato, che è troppo paziente. Per cui, vedendolo sempre così calmo, Don Toccanier gli disse un giorno: signor curato, perfino gli angeli al vostro posto perderebbero la pazienza, e io sarò obbligato a impazientirmi per voi. Ma attenti, le importunità sembrarono superare la misura un giorno del 1854, quando al suo ritorno dalla canonica, dopo la predica delle 11, si videro i pellegrini accorrere per tagliargli pezzi di cotta e anche ciocche di capelli. Per cui alcune persone presenti, profondamente indignate, gli gridarono: «Reverendo, dovreste mandare a spasso tutta questa gente! Al vostro posto esploderemmo per la rabbia!» Al che il santo rispose: «Dio mio, sono 36 anni che mi trovo in Ars e non mi sono mai arrabbiato. Sono troppo vecchio per incominciare adesso». E dobbiamo dire che i preti stessi ammiravano questa pazienza. Per esempio Don Gerin, parroco della cattedrale di Grenoble, che il curato chiamava scherzosamente cugino, rimase ore intere a contemplare lo spettacolo della pazienza, della dolcezza del santo importunato dalla folla. E un altro sacerdote dice: osservai da vicino il servo di Dio per leggere sul suo viso qualche moto di impazienza, ma non mi riuscì di scoprirlo, perché anche in mezzo alle indiscrezioni più provocanti mi parve dolce, sorridente e sempre uguale a se stesso. E quando gliene feci parola rispose: che devo fare? Ad adirarmi non guadagnerei nulla. Quanto è bene dunque che un sacerdote si offra a Dio donandogli anche i suoi disappunti. E allora qui dobbiamo dire, carissimi, che in una virtù come la pazienza la cosa più difficile è il mantenersi sempre uguale, costante, non solo in mezzo alle folle, ma soprattutto nella cerchia delle persone che si avvicinano ogni giorno e il cui contatto a volte è provocante e fastidioso. Ecco, sta qui la pietra di paragone della pazienza, Ma è anche qui che la pazienza riporta i suoi trionfi più considerevoli. Ebbene, per 8 anni, notate, per 8 anni, dal 1845 al 1853, la pazienza del curato ebbe modo di temprarsi nelle relazioni con Don Raymond, suo primo vicario coadiutore. Pensate, parlando di lui, Caterina Lassagne dice che lo considerava come un uomo inviato da Dio per esercitare la pazienza del suo servo fedele. Dovete sapere che questo sacerdote, nominato vicario di Don Vianney, più che vicario si considerò piuttosto come un suo tutore. Sappiamo che era di 20 anni più giovane del santo e sappiamo pure che era stato da lui beneficato durante il periodo degli studi in seminario. Bene, egli era di buon spirito, come riferisce la stessa Caterina, e zelante nell'adempimento del proprio dovere, ma a quanto pare gli mancava un po' il tatto, vero? Anzi, un po' tanto, Vi basti questo primo esempio. Se ne ebbe subito la prova fin dal primo giorno in cui fu ad Ars, quando con la massima indifferenza prese per sé la camera del curato, così che il santo si accontentò di un locale umido e oscuro al pian terreno. Naturalmente i buoni parrocchiani di Ars, decisi a difendere il loro parroco, gli fecero capire che sarebbero intervenuti se non avveniva subito un cambiamento. Allora Don Raymond provvide a trasferirsi in una casa vicina, restituendo al curato la sua camera. Bene, dobbiamo dire che questo primo vicario, che era stato chiesto da Don Vianney come collaboratore, perché ormai da solo non ce la faceva più, invece di collaborare, restando umilmente fra le quinte, pensava piuttosto di sostituire il santo, quindi di prendere in mano lui la direzione del pellegrinaggio e infine di farsi nominare parroco di Ars. Evidentemente non aveva pensato che alla partenza di Don Vianney Ars sarebbe ricaduto nell'oscurità che era durata fino al 1818. Di carattere aspro, è fermo sulle sue decisioni e non alieno da una certa pretesa di ingegno e di eloquenza, trattò il curato suo superiore e suo benefattore, lo trattò quasi sempre con durezza, senza riguardi alla sua età e alla sua santità. Basti ricordare che più di una volta si permise di rimproverare Don Vianney perché non gli diceva tutto o perché non dirigeva il pellegrinaggio secondo le sue vedute. E pensate, questo è proprio il colmo, giunse perfino a disapprovarlo dal pulpito. E diremo solo a sua giustificazione che forse non si rendeva conto di quale pene la sua condotta così rude potesse causare nell'animo del santo. Ed è impossibile immaginare il dolore arrecato al cuore del santo da una simile condotta. Nei primi giorni, secondo le impressioni di Caterina Lassagne, scoprendo un carattere opposto al suo nel giovane prete, che, ripeto ancora, aveva aiutato fin dal tempo degli studi, il curato tentò di resistere, vero? Ma comprese immediatamente che ciò avrebbe servito a irritarlo ancora di più, per cui si rassegnò a informarlo dei casi che potevano interessare la parrocchia, a consultarlo in molte circostanze e a seguire il suo parere là dove gli fosse stato possibile. Ma in più, carissimi, non dimentichiamo di aggiungere che il curato d'Ars amò sinceramente il suo vicario. Questa è la cosa più importante. Amò sinceramente il suo vicario, tanto che questi ebbe in seguito a dire: non ho che un rimorso, ed è quello di non aver approfittato abbastanza dei suoi esempi. Faccio tuttavia assegnamento sull'amore paterno che egli mi ha sempre dimostrato. E dobbiamo anche dire che il curato d'Ars difese il suo vicario, lo difese in ogni occasione, e non tollerò mai che lo criticassero in sua presenza. In alcuni casi le mene di Don Raimond non restarono ignote alla popolazione, vero, che naturalmente prendeva le parti del curato, ma attenti, anche in simili circostanze il santo diceva ogni bene del suo vicario, e per essere sicuro di ottenergli il perdono ripeteva con insistenza queste parole: se gli date dei dispiaceri partiremo insieme. E dobbiamo anche dire che Don Raimond era un po' un sorvegliato speciale. Difatti il vescovo stesso, venuto a conoscenza di questi fatti, mandò un sacerdote, parroco della zona, perché facesse un'inchiesta sul modo col quale Don Raimond trattava il suo superiore. E anche in questa occasione si vide il santo supplicare: «Oh, lasciatemelo, lasciatemelo! Mi rivela le mie mancanze!» E agli intimi aggiungeva: «Quanta riconoscenza gli devo! Senza di lui mi sarebbe stato difficile conoscere che amo un po' il Signore!» E più tardi si confidava al pio canonico Camelè, superiore dei missionari, dicendo: «Voi non mi rimproverate mai e io non mi trovo più bene come prima». Il 24 marzo del 48, scrivendo al vescovo per invitarlo a benedire la cappella della Providence, non dimenticava di aggiungere una parola di lode per il suo vicario: «Non ho nulla di particolare da dire a Vostra Eccellenza su Don Raimond, tranne che merita nel vostro cuore un buon posto in ricompensa della bontà che ha per me. Non credete alle cattive lingue ispirate dalla malizia». Come vedete, carissimi, si tratta di un comportamento così virtuoso, un comportamento così eccezionalmente informato dalla carità, che può essere retaggio solo di un santo, vero? Questa è proprio la classica pazienza di Giobbe, ma si direbbe anche qualcosa in più. Qui direi che non si tratta solo di pazienza, ma si tratta molto anche di carità, una carità che rispetta in pieno le regole di San Paolo. La carità è paziente, è benigna la carità, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, dalla Prima Corinzi capitolo 13. Ora, carissimi, ormai siamo prossimi alla mezzanotte, vogliamo davvero raccoglierci per iniziare fra poco la grande preghiera del Santo Rosario di mezzanotte, condotta dai sacerdoti e naturalmente dedicata alla pace nel mondo. Cercherò così alla buona di dire una parolina sulla prossima festa della Sacra Famiglia, che si celebra domenica prossima, per quanto riguarda il rito ambrosiano. E come sempre faccio precedere alle poche parole che vi dirò, quasi improvvisate, faccio precedere la proclamazione della parola di Dio. Prima lettura dal libro del Siracide, capitolo 3. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli. Ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati. Chi onora la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli, e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi onora il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo, mentre sei nel pieno vigore. Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. Parola di Dio. Ecco, questa prima lettura riguardava soprattutto il quarto comandamento, onora il padre e la madre, che sta un po' alla base della vita familiare. Ora ascoltiamo la seconda lettura, carissimi, dove San Paolo, nella lettera ai Colossesi, ci descrive un po' quella che deve essere la vita familiare, quelle che devono essere le virtù familiari soprattutto, perché la famiglia sia veramente unita e proceda secondo desideri, disegni del Signore. Ecco, dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi, siamo al capitolo 3, dal verso 12 in avanti. Fratelli, rivestitevi come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto, poi, vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Voi mogli state sottomesse ai mariti, come si conviene nel Signore. Voi mariti amate le vostre mogli e non inasprivitevi con esse. Voi figli obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino. Parola di Dio. E ora, carissimi, ci uniamo nel canto dell'Alleluia e poi ascolteremo la proclamazione del Vangelo. Alleluia, alleluia. Alleluia. La pace di Cristo regni nei vostri cuori, la parola di Cristo dimore tra voi con abbondanza. Alleluia, alleluia, alleluia. Ora ascoltiamo, carissimi, il brano evangelico che riguarda Gesù nel Tempio di Gerusalemme, perduto e ritrovato. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 2, dal verso 41. I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, beh, qualche parolina quasi improvvisata, carissimi. Quest'anno la festa di Sant'Antonio, che si celebra abitualmente nella nostra parrocchia, è stata in domenica, vero? È una festa tradizionale, diciamo, sempre con grande partecipazione di popolo. Pensate che abbiamo fatto il calcolo che ogni anno quella piccola reliquia di Sant'Antonio che abbiamo nella chiesetta, nella nostra chiesetta dedicata a questo santo, riceve circa 10.000 baci. E questa è una conferma della grande promessa che Dio fece a Sant'Antonio, vi ricordate, dopo quella tentazione che egli, così forte, che egli subì quel giorno. E poi Sant'Antonio si lamentò col Signore: Signore, dov'eri in quel momento, quando io ero tentato così fortemente di mancarti di fedeltà? E il Signore risponde: io ero lì, vicino, e stavo a vedere come andava a finire, ma siccome ho visto che tu mi sei veramente fedele, mi preferisci a tutto il resto, allora ti prometto che ti renderò famoso in tutto il mondo per tutti i secoli, il tuo nome sarà un nome glorioso. Ecco, pensate, nella nostra parrocchia, dopo 1700 anni, un santo che poi non è neanche di queste parti perché viene dall'Africa settentrionale, dopo 1700 anni nella nostra parrocchia sulla sua piccola reliquia vengono posti 10.000 baci. Questo conferma che la promessa del Signore si è avverata puntualmente. Beh, comunque, essendo stato questa festa di Sant'Antonio, essendo stata in domenica, la cosa per me ha rappresentato molto. In che senso? Nel senso che ho ammirato più che mai molte famiglie unite. E non essendo giorno lavorativo, abbiamo avuto modo di contemplare quasi per tutta la giornata, specialmente il pomeriggio, un'infinità di famiglie unite, compatte, venire alla festa pieni di gioia, di speranza e direi di vero ottimismo circa il futuro. E vi ricordo qui quello che ha detto il Presidente della Repubblica, no? Quando ci ha fatto gli auguri per il Capodanno, ha detto che l'Italia risorgerà, così ha concluso il suo discorso, bellissimo. E mi pare che sia stata una parola di grande conforto, vero? Specie per chi ha perso o sta per perdere un posto di lavoro, o per chi è costretto a ricorrere alla cassa integrazione guadagni, o comunque lavora solo a metà o a singhiozzo. Ecco, ma io, carissimi, avendo visto ancora una volta questo spettacolo di tante famiglie unite che vengono alla festa di Sant'Antonio, oso dire che in un certo senso l'Italia non ha bisogno di risorgere, perché in effetti l'Italia non è mai morta, vero? E quando in una società la famiglia tiene duro e rimane unita malgrado tutto, malgrado tutti gli agenti corrosivi che tentano di intaccarla e di distruggerla, allora questa società non deve temere la catastrofe, perché in un modo o nell'altro i problemi materiali si risolvono. E si risolvono quando la famiglia è intatta, quando la famiglia resta unita e concorde. Dunque, carissime, da quello che posso intuire, osservando un po' il mondo da questo mio punto di osservazione privilegiato, dirò, di prete, di sacerdote, che proprio in quanto sacerdote riceve anche le confidenze di tanta gente, io direi che possiamo, anzi che dobbiamo senz'altro essere ottimisti. La crisi della famiglia esiste, sì, senz'altro, ed è una realtà che non è bene nasconderci, vero? Che non è bene sottovalutare. Ma è una crisi, mi pare, che ha messo soltanto alla prova la famiglia, ma che non è affatto riuscita, mi pare, a spezzarla, a scardinarla, a intaccarla così profondamente da distruggerla. Ed è proprio in questa luce che proprio la famiglia come istituzione, intendo dire, anche se ci sono tanti casi dolorosi che dobbiamo pur prendere in considerazione, però il Signore sa trasformare il male in bene, e questo Questa sua onnipotenza gliela dobbiamo riconoscere, e in effetti lui continuamente compie questi miracoli. Ecco, comunque è proprio in questa luce di ottimismo che vogliamo celebrare noi ambrosiani la festa della Sacra Famiglia, una luce di ottimismo e di speranza. L'amore non si è spento nel cuore degli uomini, e come può essersi spento quando Dio ci ha creati per amare? E guardate che io scopro questo amore anche in tante persone che in chiesa direi ci vengono poco, o non ci vengono affatto. Anche in tante persone che vivono un po', diciamo, ai margini della vita religiosa ecclesiale, ma che comunque si direbbe vivono la fede cristiana, l'amore cristiano e perfino la speranza cristiana, forse meglio di tanti cristiani cattolici praticanti. E vi dirò che in questi ultimi tempi faccio sempre più spesso di queste meravigliose scoperte. Quanto bene esiste al mondo, anche tra i cosiddetti non praticanti. Che capolavori di grazia si ammirano anche tra i non praticanti. E questo, carissimi, non può che aumentare il nostro ottimismo. Dio non è piccino e gretto come noi, no. Lui, per fortuna, ha le vedute più larghe delle nostre. E il suo amore è davvero un amore libero, un amore libero, cioè un amore sganciato da ogni tipo di schema mentale, da ogni tipo di preclusione preconcetta, di condizionamento preconcetto, se mi passate il termine. E questo, carissimi, è certo il motivo più importante per cui dobbiamo essere ottimisti, eh? Se è vero come è vero che Lui ci vuole bene, è perché temere, perché sgomentarsi, perché lasciarsi vincere dalla paura? Siamo o non siamo Suoi figli? Siamo o non siamo Sue creature predilette, in cui ha voluto infondere col battesimo la Sua stessa vita? Dunque, fiducia, fiducia e speranza. Ecco, qui possiamo fare una pausa, poi magari continueremo un po'. Anche se dobbiamo dire, carissimi, proprio per essere realisti, che la famiglia deve fare anche ogni sforzo per riformarsi, vero? E per migliorare il suo stato di salute. Beh, ho cercato anzitutto di mettervi davanti agli occhi una visione serena della realtà per prepararvi possibilmente a mettere dei propositi seri circa il futuro. È che io penso, carissimi, che questa convinzione che Dio ci ama non sia per nulla un incoraggiare la pigrizia, ma piuttosto sia uno sprone, sia un forte sprone a fare sempre di più e sempre meglio. E saremmo davvero dei figli ingrati se rispondessimo a questo suo amore con la mollezza, con l'indifferenza, con la pigrizia. No, l'amore è una grande forza, un grande incendio che accende tutto ciò che trova. Per cui l'amore di Dio, e così come lo sperimentiamo ogni giorno nella nostra vita, è come un grande svegliarino che desta il nostro amore sopito. Qualche volta, anzi spessissimo, mi viene da dire: Signore, amami lo stesso, voglimi ugualmente bene, malgrado i miei difetti, i miei peccati, non abbandonarmi solo per il fatto di vedermi tanto debole e fragile, in ogni senso, ma piuttosto la forza del tuo amore mi purifichi e mi trasformi, fino a diventare come tu mi vuoi, come tu mi desideri. Ecco, dunque lasciamoci pure amare dal Signore e cerchiamo di comprendere sempre meglio questo suo amore, però questa consapevolezza rinnovata ci stimoli a fare ogni sforzo per assecondare questo suo amore, in definitiva per piacere a Lui. In fondo, volendo, carissimi, potremmo definire i comandamenti come modi di piacere a Dio, vero? Dio, dandoci 10 comandamenti, cosa ha fatto? Ci ha indicato le regole fondamentali per piacergli, per essergli graditi. Dunque cerchiamo di fare ogni sforzo per avvicinarci sempre più, sempre meglio a questo obiettivo, a questo risultato, di piacergli. E questo valga, carissimi, anche per la famiglia, E vi faccio subito un esempio concreto, tanto per non camminare sempre nel vago e nell'astratto. La prima lettura dice: figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia. Anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. Perché poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. Ecco, vengo a sapere da molte parti che, oggi come oggi, mettere una persona anziana all'ospizio, ossia in qualche cosiddetta casa di riposo, costa, si direbbe veramente, un occhio della testa. Si parla di cifre astronomiche, incredibili, scandalose. Quasi che a questi poveri anziani si desse da mangiare l'oro anziché la minestra, e a servirli anziché i normali operatori, neppure sempre troppo rispettosi della persona, ci fossero dei principi reali. Però a pensarci bene, carissimi, io direi che abbiamo quanto ci meritiamo, vero? Mi chiedo, perché non fare ogni sforzo per tenerle a casa queste care persone, che tanto hanno fatto per noi, cui siamo magari debitori anche della stessa vita nel caso si tratti i nostri genitori? Perché non credere alla parola di Dio che assicura o assicura una pioggia di benedizioni su chi compie in questo senso il proprio dovere? Poi, se guardiamo alla seconda lettura, carissimi, ci sono da fare altri propositi molto importanti e direi decisivi per il bene della famiglia. San Paolo ci invita infatti a rivestirci di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandoci a vicenda e perdonandoci scambievolmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Ecco, chiediamoci, è veramente questo lo stile della nostra famiglia? C'è questo spirito di sopportazione vicendevole che preferisce il dialogo a ogni altro mezzo per dirimere le questioni? O anche il silenzio nel caso che il dialogo non sia per il momento possibile? Oppure sussiste nella nostra famiglia la legge del più forte, la legge della giungla, quindi, dove chi vince è sempre solo il più bravo a parlare, o chi picchia più forte i pugni sul tavolo, o addirittura chi picchia più forte i pugni sulla schiena altrui? E poi non dimentichiamo, carissimi, che la seconda lettura ci indica anche dei doveri, doveri delle mogli verso i mariti e viceversa, e doveri dei figli verso i genitori e viceversa. Ecco, non esiste armonia e non esiste una società ordinata e perfetta se ogni membro non è consapevole dei suoi doveri, dico doveri, non solo diritti, e ogni membro non cerca poi pure di mettere in pratica questi doveri. E qui dice, per esempio, che le mogli devono stare sottomesse ai mariti, come si conviene nel Signore, e così i mariti devono amare le mogli e non inasprirsi con esse. Ecco, ciascuno si esamini e si chieda: questo avviene nella mia famiglia? Che rapporto ho con mia moglie? Che rapporto ho con mio marito? Rapporto di vero amore, con tutto ciò che comporta di tolleranza, di rispetto, eccetera, o rapporto di sfruttamento reciproco, che non sa imporsi alcun sacrificio, tantomeno quello del silenzio, per favorire la concordia reciproca? E poi dice che i figli devono obbedire ai genitori in tutto, essendo questo gradito al Signore, ma anche i genitori, i padri specialmente, non devono esasperare i figli perché non si scoraggino. Ecco, anche questo avviene nella mia famiglia o no? Oppure no, oppure i rapporti fra generazioni diverse è segnato da profonde fratture e da incomprensioni a non finire? Ecco, capite, dunque il fatto che Dio ci ama non ci deve frenare in questa opera di ricostruzione della famiglia, ma semmai deve essere uno sprone maggiore. Se Dio ci ama, se Dio ama la mia famiglia, mi darà sicuramente una mano per riuscire là dove finora mi pare di non essere riuscito. là dove finora, dove mi sembra di avere finora fallito l'obiettivo. Signore, so di essere un poveraccio, ma so anche di essere tuo figlio, di essere un figlio a te carissimo, un figlio che tu ami teneramente. Perciò assistimi in questa opera di ricostruzione della mia famiglia. Quante cose non vanno fra noi, quante cose da aggiustare, da sistemare. Ma io ho grande fiducia che questa volta sarà veramente la volta buona. Il tuo amore finalmente vincerà. Il tuo amore spezzerà il nostro egoismo e ancora una volta tu trionferai sulla nostra miseria.